Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Di nuovo bentrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia, nuova puntata dal mondo della scuola dove ritroviamo un paio di settimane di distanza due rappresentanti dell'AGE, l'associazione genitori, Giancarlo Cusin, referente per Noale e dintorni, bentornato. Buonasera. E Clementina Tassone che per l'AGE è esperta di educazione in ambito familiare, bentornata anche a lei. Grazie. Allora, l'altra volta parlavamo della scuola genitori, delle scuole genitori attive da una quindicina d'anni più o meno, dei loro percorsi educativi. Ci siamo un po' reintrodotti. Giancarlo, adesso entriamo in un terreno nuovo. Sì, l'argomento scuola genitori, di cui abbiamo parlato nella precedente trasmissione, ha un significato ben preciso. L'AGE sta tentando, attraverso il meccanismo o diciamo le modalità di scuola dei genitori, di organizzare gruppi multifamiliari che vengano introdotti all'economia sociale, cioè alla formazione di imprese sociali. È un argomento assolutamente nuovo rispetto alle attività che l'associazione svolge e di cui anche il sottoscritto ne è praticamente digiuno, per cui alla dottoressa Tassone chiede lumi su questo argomento, chiedo di spiegare di che proposta si tratta e qual è la sua storia. Sì. Allora, nell'altro incontro abbiamo parlato appunto proprio delle scuole genitori. E, il nostro conduttore ha detto nelle scuole, fra la questa associazione si occupa della scuola. Ecco, adesso stiamo pensando a occuparci di scuole di vita. nel senso che dobbiamo tentare, ci sta il discorso sull'economia di cui diceva Giancarlo, sta così imponendosi che la nostra associazione tramite le scuole genitori ha dovuto per forza occuparsi della vita quotidiana in genere, non può più occuparsi anche solo della scuola. La realtà sociale, politica, insomma, che ce la realtà sociale ce lo sta imponendo e quindi siamo partiti veramente da Abano Terme come gruppetto di studio che ha aiutato molte scuole genitori e si è trovata ripetutamente a studiare insieme e mano a mano il nostro sogno era quello di riuscire a dare una continuità alle scuole genitori, quindi creare delle situazioni in cui le persone che hanno frequentato i nostri gruppi avessero a cuore il rinfrescare ogni tanto gli argomenti, il chiedere di più alla scuola genitori. Ecco, e questo sta succedendo, per cui stiamo man mano proponendo dei gruppi mensili in quattro paesini, partendo da Abano Terme, poi Noale, poi Pozzonovo, poi Pernumia, Padova, Campodarsego. Sono più di quattro. Oh sì, oh sì. E, si è creato proprio tutta una situazione per cui questo gruppetto di studio di cui io faccio parte ad Abano Terme ha dovuto studiare molto di più e allora abbiamo steso un documento che abbiamo chiamato Libera Università dei Genitori, dei Figli, dei Nonni e di ogni persona sola che ricerca sociale, solidale socialità. E abbiamo detto che in questo documento vogliamo custodire e far tesoro del metodo della scuola genitori, che naturalmente vi invito ancora oggi a telefonarci per venire a conoscere il metodo nei nostri gruppi. E, si occuperà di custodire il metodo della scuola genitori e di far sì che attraverso questo metodo possiamo lavorare nel contesto odierno, che è un contesto molto difficile e che ci richiama al concetto di economia. Quindi si sono presentati a noi molti genitori che avevano fatto le nostre scuole cominciando a dirci cosa facciamo in questa situazione così complicata economica E così abbiamo cominciato a parlare di impresa sociale. Abbiamo detto, dobbiamo, certo, possiamo organizzarci noi come socialità. Cosa possiamo dirci noi come AGE, come persone che crediamo moltissimo nella socialità che andiamo a predicare nelle scuole genitori e che riguarda certamente la relazione fra padre e figlio, ma riguarda una cosa più ampia, che è una convivenza fra generazioni. Ecco, questa è quello che ci è apparso, insomma, da queste nostre riflessioni, e che ci ha costretto a dire dobbiamo ristudiare insieme per riflettere dei nuovi modi di convivenza fra generazioni, dei nuovi modelli. Dobbiamo studiarceli, non possiamo affidarli a nessun altro. A chi li affidiamo? Anche perché quelli vecchi non valgono più. Non valgono più. E allora alcuni di noi hanno cominciato un percorso fra le varie realtà che riguardano l'economia sociale. Abbiamo conosciuto una realtà che si chiama MAG a Verona, e, oltre ad altre realtà, banche etiche, eccetera, ma quella di Verona ci è sembrata una realtà vicinissima alle nostre esigenze. Allora abbiamo cominciato a dirci cosa vuol dire per noi impresa sociale. Ve lo dico nella prossima. È una pausa, bravissima, perché ha visto i tempi più di me. Allora facciamo la pausa e poi entriamo nel dettaglio di questa impresa sociale a partire dalla scuola genitori dell'AGE. Sì. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Questa vita, io sono solo un prigioniero, e poi non vede la mia pena, non capisce i miei pensieri, non vede come viviamo, non vede che non amiamo. Sono capitano, come sono le risposte alle tante lettere spedite, e poi mi dica dove siamo e che stiamo ancora aspettando. Non vede come viviamo, non vede cosa facciamo, non vede, non crede. Liberatemi, liberatemi dalla noia e dalla confusione. Liberatemi, liberatemi, le mie mani devono applaudire. Liberatemi, liberatemi dalle mille, più di mille paure. Signor capitano, ho i sogni tra le mani, non ho fatto mai del male a nessuno. Domande facili, difficili risposte, quanto falso, quanta indifferenza. E dai piccoli diavoli sono quelli che fanno più male. Non vede, non respiriamo, morendo, non vede, non crede. Liberatemi, liberatemi, le mie mani devono applaudire. Liberatemi, liberatemi, qui c'è buio, non so quando è domani. Liberatemi, liberatemi, liberatemi. dal mondo della scuola. Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, puntata particolare perché stiamo allargando lo sguardo anche al resto della società, lo facciamo grazie all'Associazione Genitori l'AGE, che ha proposto nel corso degli anni delle scuole genitori, dalle quali a loro volta sta germinando un percorso nuovo che porta il discorso anche su altri temi come l'economia. Con Clementina Tassone stiamo cercando di introdurci, perché è una cosa nuova, no? Nata sì, da quando? Sì, è un anno e mezzo circa che questo gruppo di studio nasce ad Abano e si interessa appunto di come fare un qualcosa che sia socialmente utile insieme come genitori e come associazione di genitori. Dicevamo che prima ci diceva che vi siete appoggiati al MAG, ecco, a Verona. MAG sì, sta sì. per? MAG sta per Mutua Cooperativa, società mutua per l'autogestione, ecco, e da 30 anni ha favorito, aiutato delle piccole situazioni di autogestione, cooperative, associazioni, fondazioni, ma piccole, cioè situazioni piccole che possono autogestirsi, quindi è facile aiutare cose piccole e aiutarsi in piccolo. Anche se poi dopo si può diventare grandi, però a noi questo ci è sembrato veramente un lavoro comune molto strutturato. Abbiamo conosciuto, siamo andati da loro varie volte, ci stanno seguendo nelle nostre imprese sociali che stiamo cercando di mettere su, e abbiamo visto che loro veramente sono accomunati da un'esperienza veramente molto molto feconda in diversi campi di economia sociale, come il lavoro di cura d'anziani, bambini, adolescenti. Hanno fatto delle piccole scuole formazione, delle piccole cooperative di agricoltura biologica, ecco, vecchi mestieri e passioni civili che si delle attività artigianali, e abbiamo visto come effettivamente tutte queste realtà sono veramente seguite da queste persone che si rifanno alla MAG in un modo proprio relazionale, ecco. Allora ci siamo detti cosa voleva dire per noi impresa sociale, e abbiamo visto che questo modo, che adesso io lo dirò, si avvicinava molto al mondo della MAG. Allora, impresa sociale, vi dico cosa ci siamo scritti. Il fine dell'impresa sociale è la custodia dei beni comuni, come la terra, il cibo, la cultura, il paesaggio, l'ambiente, la filosofia come arte del vivere, il lavoro, l'esperienza umana, la scrittura, la bellezza, che non sia più affidata a privati o a enti pubblici, ma sia ridonata alle persone. Uomini e donne nella loro unicità e diversità, con tutto il loro patrimonio pratico, intellettivo ed emozionale, perché li scambino fra di loro, favorendo non un profitto esasperato ma una relazione che consenta di stare bene sotto tanti aspetti, compreso quello economico. Allora, per noi economia è proprio letteralmente oikos nomos, casa, norma, norme fondamentali che permettono a coloro che vivono nella stessa casa di vivere bene insieme. Allora, come associazione veneta abbiamo pensato che questo potrebbe essere un po' il nostro filo conduttore, cioè il fatto di ripensare un'economia che siano delle regole che ci diamo per stare bene insieme, e allora ce ne possiamo occupare tutti di questo. Ecco perché abbiamo pensato di studiare insieme. E le attività che stanno venendo da noi stessi, da questi gruppi multifamiliari, sono molto semplici. E una prima attività è quella di assistere alcune situazioni di persone, per esempio o sole, ancora anziane non ci sono capitate, ma ci arriveremo. E per esempio abbiamo una persona che ha avuto un incidente in età sui 50 anni ha delle necessità particolari, ha una casa molto grande per cui deve veramente riorganizzarsi tutta la vita, perché adesso le case non si vendono più, se la vende la deve svendere, lei è separata, ha i figli già più o meno sistemati, ma comunque deve comunque rimpostare un'altra sua esistenza. Allora, come impresa sociale, stiamo aiutando questa persona a riorganizzarsi la vita. Ed sta sorgendo tutta una situazione interessantissima. Da cosa nasce cosa? Quindi abbiamo deciso che sotto questo appartamento ci mette a disposizione lei, facciamo un piccolo centro famiglia con l'associazione Age Speciali, e un piccolo centro famiglia dove diamo informazioni proprio per tutto quello che serve per costruirci l'economia sociale solidale per chiunque voglia affrontare un progetto di impresa sociale. Quindi ce le diamo a noi stessi, mentre ce le diamo a noi stessi e le cerchiamo per noi stessi, li diamo anche agli altri. Ecco, incontreremo la MAG perché ci sta appunto seguendo e ci aiuterà per costruire un fondo, perché questa è una cosa molto importante. Abbiamo una progettista che ci aiuta a capire come fare i progetti, perché certo è a nostra disposizione, però appunto siamo noi che vogliamo anche capire come si muove questo mondo dei progetti, che è molto molto complicato, perché tocca fare dei progetti complicatissimi per avere veramente diciamo soldi, sì. Occorre fare progetti oggigiorno in qualunque situazione. Però occorre avere degli altri soldi per pagare i progettisti affinché ti facciano i progetti, quindi è un po' una cosa che si morde la coda. Allora, a questo punto noi bisogna che le sappiamo queste cose, perché altrimenti non capiamo. L'impresa allora, rischia di fallire in partenza. Esatto, no? Esatto. E quindi c'è la necessità, stiamo già attivandoci per costruire un fondo in modo da supportare... Dal punto di vista finanziario, usiamo la parola finanziario e non economico, sì, così non confondiamo. Sì. Ecco. Allora, nella esperienza MAG esiste, sono riusciti a costruirsi una casa comune, chiedendo a ogni socio di questa impresa 500 euro in mattone, sono riusciti a... ad acquistare quasi tutto l'appartamento e qui hanno fatto una stanza che è un incubatore solidale dove fanno incontrare chi ha idee ma non ha mezzi con chi ha i mezzi economici e non ha eredi. È un'ottima soluzione ecco. Per questi tempi. Facciamo l'ultima pausa, sì. E poi torniamo insieme. Dal mondo della scuola. Placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against wrong, choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get the car seating right. People driving off fast got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night I don't think one wink I slept as I slipped out my bed to your crib I crept. Touched your head gently, felt my heart melt, cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I begged the Lord, please let me be a good daddy. All he needs, love, knowledge, discipline too. I pledge my life to you. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Just the two of us. Just the two of us. By 5 years old, bringing comedy. Every time I look at you, I think, man, a little me just like me. Wait and see, gonna be tall, makes me laugh, cause you got your dad's ears and all. Sometimes I wonder what you gonna be, a general, a doctor, maybe an MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line. True that, why you do that? I try to be a tough dad, but you be making me laugh. Crazy joy when I see the eyes of my baby boy. I pledge to you, I will always do everything I can, show you how to be a man. Dignity, integrity, honor, and I don't mind if you lose, long as you came with it. And you can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Against the world. Building castles in the sky. Just the two of us, you and I, yeah. It's a full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROM. See me, I'm trying to pretend I know on my PC where that CD go. But yo, ain't nothing promised, one day I'll be gone. Feel the strife, but trust, life does go on. But just in case, it's my place to impart. One day some girl's gonna break your heart. And ooh, ain't no pain like from the opposite sex. Gonna hurt bad, but don't take it out on the next, son. Throughout life, people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Always tell the truth, say your prayers, hold doors, pull out chairs, easy on the swears. You're living proof that dreams come true. I love you and I'm here for you. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Taking the world. Us down, hold my hand, hold my hand. Just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I, taking on the world, taking on the world. Just me and you. I'm always here for you. Look over your shoulder, I'll be there. Whatever you need, woo, just call on me. We gon' rise, whatever we you gon' need, shine. I'll be there for you anytime, you and I. True that, true that. Just the two of us. Daddy loves you. Yes. Woo! Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, però allargata alla società, alla società tutta. Chiedo a Giancarlo Cusin dell'AGE di Noale la sua impressione su questo progetto, insomma, di impresa sociale, di economia nel senso lato. Beh, è senza dubbio un argomento importante oggigiorno, in una situazione di difficoltà generali da parte delle famiglie, che richiede però alcuni prerequisiti, mi sembra, per poter essere portato a termine. Il primo è che ci sia da parte di chi viene coinvolto una carica ideale notevole, altrimenti c'è il rischio che il progetto si afflosci durante il percorso e non ne venga fuori niente. E il secondo poi è il supporto che chi si impegna chi in questo attivo, no, soprattutto il supporto che chi ha già di andare a cercare, appunto, ecco perché ci facciamo supportare dalla MAG, perché ha un'esperienza trentennale nel affermare modelli di lavoro socialmente utili e praticabili, e quindi noi ci appoggiamo a loro, ecco. Il terzo, mi pare che importante oggigiorno, sia il piccolo, il microcredito, la microimpresa, perché altrimenti c'è il rischio che le cose non riescano ad andare in porto. e che la gente magari si ritiri per paura del rischio di perdere magari i soldi che vengono impegnati. Credo che, ti ringrazio Giancarlo, nel senso che intanto dobbiamo studiare, nelle scuole genitori questo lo abbiamo ormai proprio, l'abbiamo inculcato chiaramente, allora chi si avvicina a noi sa che deve almeno prendersi il tempo per studiare la cosa, ecco perché non diamo subito le cose pronte, e questa è la cosa che più chiediamo, insomma, chi vuole informazione non troverà cose pronte, ma studierà insieme a noi. Ecco, le cose che stiamo facendo le studia insieme a noi, e quello che stiamo facendo di pratico da un po' di mesi a questa parte è appunto ripensare a nuovi modelli esistenziali di convivenza fra generazioni che siano economici, utili, vantaggiosi, e quindi stiamo appunto attivandoci per costruire un'assistenza alle persone che non possono essere che non vogliono essere assistite da badanti o non hanno questa disponibilità verso le badanti, ma che vogliono invece utilizzare le proprie risorse per garantirsi una esistenza più dignitosa e siano disponibili alla convivenza. Quindi noi organizziamo, aiutiamo questo modello nuovo, insomma. Faccio una domanda, visto che tutto ciò nasce dall'AGE, certo ci sono i genitori, ma entra più in generale la famiglia anche in questa impresa, cioè i figli che magari sono più grandi? Certamente, cioè la cosa bella è che pian piano anche loro cominciano a dire: ma come state facendo? Ma questa è la cosa importante, così come la scuola genitori deve aspettare che i genitori capiscano il metodo, che poi ritornino, che noi lasciamo piena libertà. Una persona è venuta a scuola genitori un anno, poi là dopo due anni dice: ma la stai facendo ancora? Allora vengo che mi rinfresco un po', va bene. Cioè il tempo che ognuno può avere di studiare, di approfondire una cosa che gli interessa. E quindi questo vale anche per la costruzione di un'impresa sociale. Quindi chi vuol rivolgersi a noi sapendo che stiamo facendo questa esperienza sa che deve venire, chiedere, studiare, vedere se gli interessa, approfondiamo insieme. Quindi non ci sono cose già precostituite. Certo, noi stiamo costruendo adesso questa situazione, questo modello lo stiamo costruendo. E quindi sotto da questa signora presso cui costruiremo questa rete assistenziale, abbiamo un piccolo appartamentino da dove ci sarà proprio una sede dove facciamo informazione alle famiglie che vogliono capire come si fa un fondo famiglia, capire come un'associazione aiuta delle situazioni a diventare imprese sociali. E questo a Padova. Invece a Pernumia stiamo costruendo, a Pernumia, a Pozzonovo, stiamo facendo partire delle scuole di vita quotidiana, le abbiamo chiamate, ripensare al quotidiano, e sono delle situazioni che abbiamo conosciuto una è una situazione di andiamo lì, cerchiamo di riprendere il vecchio mestiere di fare il pane in casa con il metodo del lievito madre. E un'altra situazione è invece la mamma di una nostra socia AGE che ci ha messo a disposizione il suo negozio di casalinghi, ce l'ha aggiustato per riprendere un laboratorio di cucito. Ci ha chiesto a noi se potevamo aiutarla, perché questa gli sembra un'idea importante. Mi ha detto: no, il corso per i pupazzetti per la parrocchia, no. Voglio che le giovani riprendano in mano l'ago e il filo e capiscano cosa vuol dire attaccarsi un bottone, cose molto semplici, che adesso questa cosa verrà buona. E quindi queste sono le cose che stiamo cercando di anche cose molto pratiche, molto semplici, però quindi nello stile appunto di riteniamo veramente indispensabile, dice la MAG, al buon vivere il legame fra le generazioni nell'ottica dell'invenzione di nuovi lavori a partire da quelli antichi. Ecco. Invitiamo i giovani e le giovani a confrontarsi con la possibilità di investire tempo e intelligenza nell'apprendimento del meglio dei saperi pratici delle generazioni passate, pur aggiornandoli al presente tempo, aprendo così nuove piste, possibilità e direzioni. E l'altra cosa, quindi solo così l'impresa sociale potrà avere un futuro. Certo. No, non abbiamo più tempo, ok. Allora visitate le nostre scuole genitori e veniteci a trovare, abbiamo lasciato il numero di telefono a cui chiedere informazioni lasciando anche un messaggio in segreteria, sì. 049 812275, Clementina Tassone. Che ringraziamo per la presenza, come ringraziamo tutta l'AGE e Giancarlo Cusin. Buon proseguimento, buone cose. Buonasera a tutti e grazie. Arrivederci. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.